Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. È il marzo del 1994 e la Somalia è un paese in guerra. Si scontrano opposte fazioni e bande locali e per questo l'ONU ha organizzato la missione militare Restore Hope. Ma i gruppi attaccano e poi svaniscono nell'ombra e le principali testate giornalistiche seguono l'evoluzione di quel conflitto. Il TG3 invia in Somalia Ilaria Alpi e il cameraman Miran Krovatin. Ilaria Alpi, 32 anni, muove i suoi primi passi in campo giornalistico a Italia Radio e sul quotidiano L'Unità. Si fa apprezzare per numerosi servizi di politica estera, conosce perfettamente arabo e inglese. Nel 1990 entra in Rai per concorso. Alessandro Curzi, allora direttore del TG3, la assume nella sua testata. Ilaria Alpi lavora in Francia, Marocco, Belgrado, Zagabria. Dal 1992 si reca almeno 7 volte in Somalia, indaga sui soldi della cooperazione italiana al paese africano e spesso si chiede: dove sono finiti tutti quei soldi stanziati per la Somalia? Ilaria Alpi lavora con un professionista di grande esperienza, Miran Krovatin, 45 anni, una moglie e un figlio. È un telecineoperatore croato, un cameraman curioso e preciso, inviato più volte in zone di crisi e di conflitto. Le sue immagini ritraggono persone che vivono sotto i livelli minimi di povertà. Il 12 marzo del 1994, Ilaria Alpi e Miran Krovatin raggiungono per la 7ª volta la Somalia. Per il TG3 devono seguire la partenza del contingente italiano, quello dell'UNISOM, prevista 8 giorni dopo. Ilaria e Miran non seguono però i tour organizzati dall'esercito, riservati agli inviati di quotidiani, settimanali, mensili, telegiornali di tutto il mondo. Si recano invece a Bosaso, nel nord-est della Somalia, dove gli scontri restano cruenti. E a Bosaso, Ilaria Alpi scopre una notizia che deve restare segreta. Le milizie sequestrano la Farax Omar, una nave regalata dalla cooperazione italiana alla Somalia. Si interessa così di 3 componenti dell'equipaggio, tutti italiani: capitano, capomacchine, marinaio. Ufficialmente la Farax Omar è un peschereccio, ma nasconde un'attività con ogni probabilità illegale. La nave trasporta armi e rifiuti tossico-nocivi e l'equipaggio lavora per l'intelligence italiana. Dal 12 al 20 marzo 1994, Ilaria Alpi e Miran Krovatin girano materiale televisivo. Nell'unica cassetta disponibile, la giornalista intervista testimoni, fa domande, ma a un certo punto la cassetta si interrompe. Poi ricomincia non appena terminata la risposta dei suoi interlocutori. A Bosaso Ilaria Alpi scopre certamente qualcosa di importante, ma non ne parla neppure ai suoi genitori, come conferma la madre Luciana Alpi. Non ci ha mai raccontato niente, perché sapeva perfettamente, intanto credo che una giornalista professionista non racconti ai genitori che cosa va a fare in un viaggio, soprattutto in un viaggio così pericoloso. E proprio poi per non metterci in ansia, noi già ne eravamo abbastanza ogni volta che partiva di preoccupazione. In quei giorni Ilaria Alpi descrive sul taccuino quell'angolo di Africa che conosce ormai bene. A Mogadiscio c'è una centrale di polizia. Gli agenti con berretto azzurro, alcuni armati, altri no, cercano di mettere ordine nel caos generale. La maggior parte viene dalle file della polizia di Siad Barre, altri sono nuove reclute. L'organizzazione è in mano ad un ufficiale dei carabinieri italiano. Non è una forza dell'ordine, visto che non saprebbe quale ordine instaurare e soprattutto non ha un ministero degli interni al quale fare riferimento. Può servire ai militari stranieri come aggancio con il territorio. La gente si sente rappresentata da questa polizia fantoccio che pare trovarsi nei posti per caso e non sembra troppo convinta del proprio ruolo. Se la situazione non fosse così seria, potrebbe sembrare un gioco. Ovviamente non lo è. 20 marzo 1994, Ilaria Alpi e Miran Krovatin tornano a Mogadiscio. Alle 15.30 stanno passando con la loro auto davanti all'hotel Amana. La vettura su cui viaggia nell'area Emiran viene bloccata da 7 somali che aprono il fuoco contro i 2 inviati italiani, mentre l'autista e la guardia del corpo si dileguano misteriosamente, come è documentato nel film Il più crudele dei giorni. Questo ce l'hanno con noi? Indietro, torna indietro! Indietro, calma! Vai giù! Non uscire! Poche ore dopo in Italia, Flavio Fusi, del TG3. Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano al TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore, Miran Krovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian, e così. Ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere. Ma cosa accade dopo l'agguato contro Ilaria Alpi e Miran Krovatin e prima del trasporto dei loro corpi al Porto Vecchio? Un uomo della sicurezza dell'hotel Amana contatta Giancarlo Marocchino, un faccendiere italiano che opera a Mogadiscio. E Marocchino si reca immediatamente sul posto e presta i primi soccorsi. Io, quando sono arrivato, sono sceso, sono andato davanti alla macchina. La macchina aveva il vetro rotto, non c'era vetro, e ho visto l'operatore di Ilaria che era appoggiato al sedile, capì subito che era morto sul colpo. Mi avvicinai di più alla macchina, girai dal lato sinistra perché la macchina era ferma col cassone, diciamo, perché era una quelle Toyota pick-up, doppia gabina, due portiere e poi il cassone. Il cassone era contro il muro. Io girai l'angolo della macchina, guardai dentro, rimasi così, stupefatto, rimasi male, no? Secondo i filmati girati sul luogo dell'omicidio, i corpi vengono trasferiti sulla macchina di Giancarlo Marocchino. Nessun carabiniere presente sul posto, nessun militare trasporta i corpi di Ilaria Alpi e Miran Krovatin nel Porto Vecchio. Una versione diversa viene invece fornita dal generale Carmine Fiore, comandante del contingente italiano in Somalia a distanza a Mogadiscio. I carabinieri sono andati a recuperare i corpi, se no non si capisce che cosa sarebbero andati a fare. Una volta arrivati, hanno trovato il marocchino che un minuto prima si era mosso per portare i corpi al Porto Vecchio. Si sono diretti dietro la macchina del marocchino, ne hanno facilitato l'ingresso al Porto Vecchio e, insieme ai due giornalisti, hanno provveduto a caricare i corpi sull'elicottero. Il padre di Ilaria, Giorgio Alpi, riferisce un colloquio avuto con il comandante del contingente italiano. Lui ci disse che il carabinieri erano stati sul posto, poi in un certo senso si corresse e ci fece anche un disegno, questa la strada dove furono colpiti Ilaria e Miran incrociava con un'altra strada e ci spiegò che un mezzo militare era arrivato. Bisogna calcolare che erano passati almeno 20-25 minuti, 30 minuti dall'eccidio, e che incrociarono la macchina di Marocchino che trasportava i due corpi e perciò seguirono questa macchina. Anzi, ci disse che come una grande cosa fatta dai militari, che per fortuna c'era questa macchina, perché il Porto Vecchio era presidiato da truppe nigeriane che non avrebbero fatto passare in nessun modo il mezzo se non ci fossero stati i carabinieri, cioè tutta l'attività svolta dalle nostre forze armate fu quello di pregare i nigeriani di aprire una porta. Noi diciamo che era molto strano, perché era una macchina che trasportava due corpi, perciò penso che anche i nigeriani avrebbero certamente aperto la porta senza aver avuto bisogno di essere aiutati. Alla fine l'accertamento dei fatti smentirà però il generale Carmine Fiore. Tra poco, dopo la pausa, prosegue il racconto sul duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Krovatin. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Ilaria Alpi e Miran Krovatin sono stati uccisi a Mogadiscio e i loro corpi trasportati in Italia. Dopo i funerali inizia il lavoro degli investigatori. Quella per il duplice omicidio è un'inchiesta difficile. Registra buchi neri, depistaggi, deviazioni. 4 luglio 1994. Il padre di Ilaria, Giorgio Alpi, parla di esecuzione. Ricorda che sua figlia, poco prima di morire, aveva intervistato il sultano di Bosaso per raccogliere notizie sulla cooperazione e presunte violenze in Somalia. Aveva annotato tutto su un taccuino poi scomparso. 17 gennaio 1995. A Roma si insedia la commissione bicamerale d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Si occupa anche del caso Alpi. In un'audizione riaffiora un'ipotesi. La giornalista avrebbe appreso particolari su un traffico d'armi internazionale. 9 aprile 1995. Tra gli indagati spunta il nome del sultano di Bosaso, Abdullahi Moussa Bogar, come mandante del delitto. La sua posizione sarà subito archiviata. 3 aprile 1996. Una relazione della commissione bicamerale sostiene che le testimonianze raccolte sono piene di contraddizioni e non permettono nessuna conclusione. 25 giugno 1996. La seconda perizia balistica contrasta con quella precedente. Il colpo contro Ilaria Alpi viene sparato a bruciapelo. La terza perizia giunge alla stessa conclusione. Un'esecuzione. 12 gennaio 1998. Viene arrestato per concorso nel duplice omicidio il somalo Ashi Omar Hassan. È a Roma da due giorni con 11 connazionali, presunte vittime delle violenze dei soldati italiani in Somalia, per testimoniare alla commissione parlamentare. Hassan viene identificato dall'autista della Alpi. Il 18 gennaio 1999 inizia il processo contro Hassan, quello che proseguirà per alcuni anni di dibattimento. . 9 luglio, il PM chiede l'ergastolo per l'imputato, ma il tribunale assolve Hassan. 24 novembre 2000, la Corte d'Assise d'Appello di Roma lo condanna all'ergastolo. Il somalo viene riconosciuto come uno dei 7 componenti del comando che ha ucciso Ilaria Alpi e Miran Krovatin. 10 ottobre 2001, la prima sezione penale della Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della premeditazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 10 maggio 2002, al processo d'appello per gli omicidi Alpi e Krovatin, la pena per Ashi Omar Hassan è ridotta dall'ergastolo a 26 anni di carcere, nonostante il parere della Procura Generale. Il somalo Ashi Omar Hassan resta ancora oggi in carcere. E i mandanti, chi sta dietro all'omicidio di Ilaria e Miran? Le indagini sul duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Krovatin vengono attivati in ritardo, indizi dissipati, perizie contrastanti, nessuna collaborazione tra apparati dello Stato. E per comprendere che cosa è accaduto, dobbiamo compiere un passo indietro. . 16 marzo 1994. Ilaria e Miran si recano a Bosaso, piccola cittadina nel nord-est della Somalia. Ilaria deve intervistare il sultano di Bosaso. Di che cosa parlano? Dell'intervista rimangono solo alcuni stralci. Alcune videocassette girate in Somalia sono scomparse. Solo 6, riguardanti la guerra, giungono in Italia con i corpi ormai senza vita dei due giornalisti. Spariscono anche 3 dei 5 taccuini trovati nella stanza della giornalista, compresa la sua macchina fotografica. E allora, che cosa ha scoperto Ilaria Alpi? Ci vengono in aiuto le pagine del diario scritto dal maresciallo Aloi, pure lui presente in Somalia. Sono andato a trovare Ilaria in albergo. Sta cenando. Mi invita a sedermi con lei, mi racconta le novità. Pare che abbia scoperto che siano in atto traffici di armi che dall'est, passando per l'Italia, attraverso un corrispondente, giungono al nord della Somalia, distribuendosi capillarmente in tutto il paese. Ilaria probabilmente ha scoperto uno dei canali che vengono utilizzati per il traffico delle armi, e che è lo stesso che serve a società di vari paesi, tra cui l'Italia, allo smaltimento di scorie radioattive. Andando lungo le strade dei pozzi, dice, passa per i porti di Bosaso e Merca. Poi, con la complicità dell'imprenditore Giancarlo Marocchino, che fornisce i mezzi per gli scavi, moltissimi fusti di rifiuti tossici vengono interrati. I trasporti, inoltre, avvengono su navi fornite dalla cooperazione italiana, sia per le armi che per i fusti. Ilaria dice di averne le prove. Luciano Scalettari è un giornalista di famiglia cristiana e ha scritto un libro inchiesta sul caso Alpi. Il racconto di Scalettari parte dal materiale di Ilaria Alpi mai più ritrovato. Si può immaginare, supporre, che in quel materiale scomparso ci fossero altri elementi per capire che cosa di specifico aveva scoperto. Mancando quelle prove che evidentemente sono state fatte sparire, uno dei tanti misteri da chiarire, che speriamo la Commissione che possa chiarire, non abbiamo l'elemento specifico. Sappiamo però per certo che Ilaria Alpi era stata in Somalia 7 volte, quello era il 7° viaggio che faceva, e fin dall'inizio era indagato sulla mala cooperazione, sui traffici di armi e rifiuti, su una flotta di italiane regalate dalla cooperazione italiana alla Somalia, sui traffici d'armi. Ci sono elementi precisi anche dall'ultimo girato, perché fa delle domande a un intervistato su questo. Di recente, negli ultimi 2 o 3 anni, ci sono anche testimonianze che confermano il suo interesse al traffico di rifiuti. Quello che emerge studiando, cercando di capire di più su ciò che accadeva in Somalia in quegli anni, è che l'intreccio fra la cooperazione, i traffici d'armi, i traffici di rifiuti era molto forte, probabilmente anche venivano utilizzati gli stessi canali, quindi diciamo che la strada privilegiata può essere questa, di capire appunto e di scovare se è possibile un elemento che provi in qualche modo il collegamento fra l'indagine Ilaria Alpi su questi traffici e la sua eliminazione. C'è da dire che a Udine la Digos, attraverso un informatore confidenziale, aveva colto una serie di informazioni che davano proprio questa pista dei traffici di armi e rifiuti come la pista su cui Ilaria Alpi indagava, e per cui è stata uccisa. E in quelle informative ci sono anche i nomi dei presunti mandanti e della dinamica dell'agguato. La Somalia è un crocevia di affari e di misteri. Nel 1994 nel paese africano è presente anche il SISMI, il Servizio Segreto Militare Italiano. Il giornalista di famiglia cristiana Luciano Scalettari descrive così il ruolo dei servizi segreti nel caso Alpi. C'è un fatto abbastanza importante che riguarda proprio i giorni immediatamente precedenti la morte di Ilaria Alpi, Milan Rovati. Questo lo si è scoperto solo molti anni dopo, nel 1999, quando Ilaria Alpi è a Bosaso, e la si cerca tra l'altro perché il generale, il comandante delle forze italiane, la sta cercando e non sa che è ancora che è a Bosaso. Si è scoperto che proprio in quei giorni un agente del SISMI, Alfredo Tedesco, manda un'informativa a Roma dove dice che Ilaria Alpi è minacciata di morte. E siamo al 17-18 marzo del 94. Nota questa informativa, non è mai portato né a una comunicazione al generale Fiore, che era appunto il comandante italiano e che era il responsabile della sicurezza degli italiani in Somalia, di tutti gli italiani, anche dei civili, né sia tratto che abbia avuto un qualsiasi altro esito. Quindi anzi, la minuta detta, la copia insomma dell'informativa, risulta nella frase parla dell'Alpi, risulta depennata, questa frase risulta cancellata. E non si è ancora riusciti a sapere, questo attraverso appunto gli interrogatori, l'unico processo che finora c'è stato, che riguarda un somalo che è stato condannato come membro del comando, e non è mai stata accertata la responsabilità di chi l'ha cancellata quella frase e perché l'ha cancellata soprattutto. Non è stato individuato dal SISMI, né dichiarato chi era il responsabile dell'ufficio, insomma chi ha deciso di non comunicare questa cosa, di non darne seguito. Questo è l'episodio, diciamo, era trattato più importante. Poi, diciamo che c'è una situazione accertata, al di là poi degli elementi più vaghi, di disinteresse da parte del SISMIS, che è il servizio segreto militare che opera all'estero, quindi anche in Somalia, un disinteresse protratto negli anni e dichiarato, cioè non è compito nostro. Ilaria Alpi è a conoscenza di traffici di armi e di rifiuti tossici, cioè traffici illegali che passano dalla cooperazione internazionale tra l'Italia e la Somalia. È un giro vorticoso di denaro e di tangenti. Di queste vicende Ilaria Alpi veniva puntualmente informata da Vincenzo Licausi, agente del SISMI, morto in circostanze misteriose il 12 novembre del 93 a Mogadiscio, come ricorda Falco Accame, presidente dell'Associazione delle Vittime delle Forze Armate. Qui si tratta di una questione proprio molto preoccupante di inquinamento nel ruolo dei servizi segreti, perché Vincenzo Licausi era un addestratore di Gladio, era stato capo del centro Scorpione di Gladio a Trapani, un personaggio che era entrato giovanissimo, aveva poco più di 20 anni nei servizi, e aveva svolto questo ruolo di addestratore nella Gladio. Inoltre doveva deporre al processo che si teneva sul centro Scorpione di Trapani. Morì pochi giorni prima che si tenesse questo processo. Oltre ai servizi segreti ufficiali, operavano dei servizi segreti sottufficiali. Alle 8 sembrava una giornata come tante altre a Mogadiscio. Alle 10, nella zona sotto il controllo del generale Raina, per ribadire che non si trattava dei suoi uomini. Di Maio non è sicura, ma in quel posto ci sono due militari americani, mentre il loro convoglio attraversava le strade. I cacchi blu che hanno perso la vita dall'inizio della seconda fase dell'operazione Omni-Mare. Questa era Ilaria Alpi, giovane, solo 32 anni. Girava lungo le strade del mondo e annotava tutto sopra pagine di taccuini, raccoglieva testimonianze per il TG3. Ilaria non andava in vacanza. Non è stata uccisa da delinquenti comuni, come sostiene il presidente della commissione parlamentare Carlo Taormina. Quelli di Ilaria Alpi erano servizi scritti in punta di penna, filtrati attraverso l'occhio elettronico della telecamera di Miran Krovatin. Verità indicibili che ogni giornalista dovrebbe poter raccontare ancora oggi senza essere ucciso. Fuoco si sono moltiplicati, di qui ad essere già nel merito quello precedente, un rappresentante dell'ONU ci spiega che osservano un convoglio di un'organizzazione, pure i campi profughi sono di maggioranza assoluta dei seggi e grande sconfitta del presidente nazionalista Lanzeri, che ha dato stamattina la partenza della nuova sembrano quasi imbarazzati. Nessuno spazio sembra essere rimasto per la pacificazione. Giallo e Nero, un programma di Daniele Birchessi. Editing, Carmelo Lauricella.